24 mattino. Io me ne vado da questa casa perché siete due vecchi. Sì, hai bisogno di soldi? È normale che ho bisogno di soldi. Che faccio? Li prendo da sopra l'albero? Grazie, mami. Sparisce. Va bene. I bamboccioni, grande tema italiano, spesso irrisi ingiustamente, ma questa volta non si può che stare dalla parte dei padri. E mi riferisco alla vicenda che ho tenuto dulcis in fundo per discuterla con Oscar Giannino, la storia del padre Gino Cecchini condannato a pagare, a continuare a pagare l'emolumento alla sua figlia di 26 anni che non lavora. Allora Oscar, sei lì? Certamente, certamente, eccomi. Gattone, gattone per noi. Ma tu come farai con i tuoi figli? No, ma dai, perché vedi che sei buonista, ormai sei corrotto dalla tua paternità. Ma scusate, ora raccontiamo i fatti perché sono incredibili. Lui è agronomo, ha due figlie, guadagna, dichiara, 20.000 euro l'anno. Dice a questa ragazza: se non studi, se continui a non fare gli esami, io non ti do più una lira perché non posso mantenerti. Lei gli fa causa e ottiene giustizia. Voleva 2.500 euro al mese, invece dovrà pagare 240 euro al mese per la stanza in affitto a Gorizia, anche se lei non frequenta le lezioni, e poi deve dargli 350 euro al mese per le spese personali. Allora, sei dalla parte della ragazza? Ma ti pare che possa essere dalla parte della ragazza? Cioè, io sono andato via di casa a 18 anni, mai voluto né chiesto né prima né dopo nulla, vendevo già libri delle Naudi quando stavo al liceo, cioè ci mancherebbe altro. La mia idea è che quel giudice, veramente sarei curioso di intervistarlo e capire in base a che cosa comincia questo ragionamento, anche perché faccio riflettere chi è in ascolto. Qui bisogna sempre conoscere i casi personali, dietro cose di queste c'è sicuramente una famiglia con molti problemi dentro, ma al di là sì, di questo, io vorrei capire una cosa: la figlia sa quanto guadagna il padre, no? Sì, allora, 20.000 l'anno. Come fa? Gli deve dare circa 1.000 euro al mese perché poi gli paga. Io capisco anche che l'avvocato l'avrà subornata dicendo: chiediamo la luna per ottenere un pezzo di pietrolina, ma come fa a chiedere una cifra di quel tipo? Perché il giudice può consentire, non a quella cifra, ma comunque al principio a 26 anni? Ci sono delle cose che non mi tornano, devo dire la verità. In generale, per quello che è noto, impariamo a diffidare di quello che troviamo sui giornali, se no facciamo come il giudice musulmano col bambino cristiano. Questa è un'intervista, c'è poco da, non c'è da dubitare. Giudizio, sì, no, ma sui particolari e sui motivi, ecco, questo è quello che non mi torna. In generale, se la cosa è come raccontata, mi vengono i brividi, nel senso che non capisco come la figlia abbia potuto, e soprattutto il giudice come possa decidere una cosa simile. Bene, prima di entrare in tante questioni belle e spinose di oggi su cui potremmo discutere, allora, dividerci. Come la pensi tu? Io sono proprio per ai lavori forzati, cioè io stampavo magliette quando ero al liceo per guadagnare soldi e poi tutte le... cioè, ma ti pare che uno può avere a 26 anni la paghetta? 26. No, dai. Veramente insostenibile. Col giudice, purtroppo, che deve occuparsi di quel... Bah, vabbè. Siamo due culi di pietra entrambi. 800 800 24 0024 per le vostre telefonate. Ma abbiamo al telefono un uomo simbolo della Lega Nord, è Gianmarco Centinaio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. A cui voglio di nuovo sottoporre la questione di cui da due giorni discutiamo: ma si può trasformare in una vicenda politica una tremenda storia drammatica, quella di Sonia che scompare per la malaria? Veramente lei pensa che gli immigrati trasmettono le malattie anche in questo caso? Personalmente no, nel senso che non sono solo gli immigrati a trasmettere le malattie, però è indubbio il fatto che ci sono alcune malattie che in Italia erano state debellate e con l'arrivo di persone che da un lato non sono state vaccinate o che comunque arrivano da zone dove la malaria esiste, è probabile o è possibile questa cosa. Poi la terminologia che gli immigrati portano le malattie mi sembra un po' tirata per i capelli, ecco. Un centinaio garantista, però proprio su questa vicenda ci sono indagini in corso, non c'è ancora una verità scientifica, ci sono diverse ipotesi per cui gli immunologi pensano che sia il sangue, gli esperti del ministero pensano che possa essere, l'ho letto stamattina da Repubblica, addirittura un contagio avvenuto in campeggio, perché nelle zone più calde del paese in quest'estate che è stata molto calda, perché intervenire adesso e fare una campagna politica? ormai siamo in campagna elettorale, ahimè. Ma come? Lo dice lei, rimaniamo spiazzati. Fantastico, Oscar. Però io devo dire che lei è fantastico, perché almeno dice esattamente quello che uno non si aspetta facendole la domanda, però io l'apprezzo, perché lei dice le cose come stanno, insomma, ecco, è campagna. Perché io faccio parte di quella, forse di quella classe di politici, mettiamola tra virgolette, perché non mi reputo molto politico, sì. Però che alla fine andare a raccontare le stupidaggini alla gente poi sono dei boomerang che ti ritornano indietro. Ma conseguenza è meglio non farlo. Abito a Pavia, il Policlinico di Pavia ha un reparto di malattie infettive, sì, dove mi confronto settimanalmente sì con loro, proprio perché ci sono delle malattie infettive che stanno arrivando nel nostro paese, ma non sono portate dagli immigrati. Per esempio, ci sono alcune malattie che sono portate da alcune zanzare, alcune mosche o comunque alcune zanzare che stanno comunque creando delle problematiche non indifferenti, soprattutto al nord Italia. Non si può dire che vengano portate dagli immigrati. Lei l'ha già detto prima. È fantastico. Lei l'ha già detto prima e mi permetto. Giù il cappello. Esatto, e mi permetto di fare la domanda perché calza con quello che ci ha appena detto. Massimo Franco oggi sul Corriere della Sera scrive testualmente questo: sorprende un po' il fatto che i leghisti puntino il dito sulle malattie, tra virgolette, importate, a loro dire, dai migranti, e in parallelo sottovalutino l'importanza dei vaccini. Appare una contraddizione difficile da spiegare. Massimo Franco dice: visto l'importanza che date agli immigrati, eccetera, eccetera, dovreste essere, se loro sono il fomite del rischio, risolutamente per dire vacciniamoci contro il rischio di quello che ci portano loro. Come stanno insieme queste due cose, secondo lei? Mio figlio è vaccinato. Vabbè, basta. Chapeau. Allora, grazie a Centinaio. Oscar, dobbiamo veramente dividerci su qualcosa. Io ti ho proposto dei temi oggi perché ci sono troppe vicende aperte che meritano discussione. Faccio un esempio: la manifestazione di Roma. La manifestazione. Posso dirti un tema per l'anniversario della marcia su Roma? La proibiresti? O la permetteresti? Guardi, la Raggi si è pronunciata contro. Io penso, guarda, ti voglio stupire. Tu sei. Poi avremo addirittura un fascista. Parteciperai? No, se non altro per storia personale. No, ma credo che non si debba vietare una manifestazione se non ci sono violenze, se non ci sono scontri. Ricordati che a Roma, ancora negli anni 80, il movimento sociale sfilava a Palazzo Venezia facendo saluti ai fascisti davanti al balcone e non è successo niente. Allora, stai dicendo che sei contro la decisione della questura che ieri ha vietato la passeggiata di sicurezza a Tiburtino? Sono contro la decisione della questura, certo. Facciano la sfilata. Protestano tutti in Italia. Io sono perché la gente possa manifestare se rispetta le regole. E lo vediamo esposto. Però a questo punto mettiamoci d'accordo. Secondo te, per esempio, secondo te, in Germania, bravo, se qualcuno indice una marcia, anzi la sfilata con le torce, per essere in linea con quel passato, per evocarlo, a favore del Putsch di Monaco o dell'incendio del Reichstag, secondo te in Germania che succede? Ma non penso che la Germania debba insegnare a noi cosa deve accadere. Penso che in Italia i padri costituenti permisero addirittura a dodicesima disposizione transitoria l'idea che dopo 5 anni dalla liberazione, se gli ex dirigenti della Repubblica Sociale avessero voluto presentarsi, ne avrebbero avuto la possibilità. Certo. Siamo una Repubblica che non ha paura di chi è contro la democrazia. E viva Dio, questo per me è un grande segno di forza. E qui c'è la contraddizione, però, perché siamo contemporaneamente un ordinamento che dice che è proibita la ricostruzione del partito... lo dice fascista. L'ordinamento. Allora, questa è da sempre la contraddizione, perché da una parte io sono liberale e libertario come te e quindi dico viva l'articolo 21, la libertà di manifestazione. Dall'altra l'ordinamento dice è proibita. Allora la faccenda è: se fai la manifestazione il 28, evocando il 28 e quello che significa, cioè per atto costitutivo fondamentale della roba che l'ordinamento vieta, come la mette? Questo è il punto. Allora, in Austria si parla di demolire la casa di Adolf Hitler, la casa dove è nato, ovviamente, perché è diventato luogo di pellegrinaggio. Qui in Italia Predappio è gestito storicamente dai sindaci PD. PC, PDS, poi Partito Democratico. La memoria storica non si cancella. Io non sono d'accordo con Violante che dice scalpelliamo l'obelisco nemmeno del Foro Italico. No, nemmeno io la storia non si cancella. Non ho niente a che vedere con con quella però storia. Però la manifestazione del 28 non è memoria storica. Non è memoria, non è memoria storica, è una roba da tutta Italia. Contro il governo, legittimo, legittimissimo protestare contro il governo, ci mancherebbe altro, ma nella forma evocativa e nel giorno preciso di qualcosa che pone un problema. E lo pone non perché sei liberale o repressivo, lo pone perché è, perché è scelta apposta quella roba lì. E allora io su questo devo dirti la verità, non invidio il giudice che dovesse pronunciarsi su, come sempre, che poi finirà così, che questa roba finirà un giudice perché il Viminale ci sta andando piano, perché ha avuto l'input da quello che... Parenzo che scrive, mi manda i messaggi, forza Giannino, Parenzo dormi, ma anzi chiamiamolo, guarda, chiamiamolo, come, no. Forza Giannino mi scrive, ma roba da male. Vabbè, poverino, lui si becca il pomeriggio con Giuseppe un valanghe di insulti, ogni tanto cerca un mio d'appoggio, saluti a distanza, pure lui. Saluti a distanza, no. Però insomma questo è un problema delicato, perché non è memoria storica, questo è invece comprensibile da parte di Casa Pound. Io non sono dalla parte con quelli che dicono mettete in galera quelli di Casa Pound, perché con il tuo no, punto no, questa è forza nuova, ma forza nuova, sto dicendo, e nello Casa stesso Pound filone di è quello contraria alla manifestazione del 28, dicendo, cioè abbiamo dei fascisti che sono contro la manifestazione dei fascisti, sto dicendo che nel filone di iniziative politiche come quelle che fa Casa Pound nel sociale, che però deliberatamente innestano nelle proprie iniziative, nel proprio profilo politico, non di memoria storica, dei simboli, dei giorni, delle date, delle maniere organizzative che sono in diretto collegamento con quello. Allora, hai capito? Questo è il punto. E discutiamo questa tua idea subito dopo con Parenzo, incredibilmente sveglio, alle 8:31. Mattino. Luca Telese, Oscar Giannino e guest star David Parenzo. Il suo corpo dovrebbe essere conservato per la scienza. Ieri ha stabilito un primato di presenza in onda multimediatico, perché ha totalizzato un'ora alla mattina alla Via Gattina, 3 ore alla Zanzara, 4 ore a in onda. Hai capito, Oscar? E no, chiama per dire sono d'accordo con Giannino, ma stiamo scherzando. Sai che alcuni... Ma dormi! Dormi, figliolo, dormi! Ma che dormi? Vi sto ascoltando da questa mattina straordinaria. Sono d'accordo con Giannino, ma vi chiedo, ma scusami, a te e ai vostri radioascoltatori, ma che cosa deve fare ancora di più Forza Nuova perché non la sciolgano? Devono sfilare, devono mettere delle stelle gialle sui negozi degli ebrei di Roma, cosa che peraltro in passato è stata già fatta, per dire che hai una libertà di manifestazione di pensiero. Ma non abbiamo paura di Forza Nuova, la democrazia è più forte, la democrazia è più forte. Ma ci sono delle regole. Allora aboliamo le regole, la Costituzione, cambiamo tutto. Cosa devono fare? Hanno fatto un manifesto che rievoca la Repubblica Sociale Italiana, dove un soldato americano nero stupra manifesto una donna schifoso bianca. Che abbiamo definito schifoso, ma no, non è capito, che è vietato. Ma se c'è una regola, la regola a casa mia va rispettata. Nel 1946 non è stato sciolto il Movimento Sociale. Ma di più, qual perché è dobbiamo limite? Sciogliere Forza Nuova? Ma a parte che il Movimento Sociale è una gente anche seria, peraltro rispetto a questi fascisti del terzo millennio, fascisti su Marte, sembrano guzzanti per tante cose, anzi non hanno per me, perché sono dei somari. Oscar. Ma che cosa devono fare di più? Cioè, a che cosa dobbiamo vedere ancora? Bisogna vedere davvero la marcia su Roma di questi... Sei con il liberticida Parenzo o con il libertario Telese? No, dunque, voi come... non tenere due piedi in due scarpe come fai? Non fate i giornalisti del cazzo. Non fate i giornalisti del cazzo che riducono il bianco e nero. Qui stiamo parlando di una faccenda fondamentale. Faccenda fondamentale, cioè come si esprime la libertà e rispetto alla libertà, perché tutti e tre la pensiamo su questo, rispetto a temi fondamentali su cui il nostro ordinamento ha dei caveat precisi. Non ne ha molti, perché è la verità è che consente la libera espressione, ma almeno in teoria, ma in pratica è così. L'abbiamo consentita sia chi dava le pistole ai minorenni quando ero giovane io nella mia città, sia dalla parte opposta politica l'abbiamo consentita. Quindi è così, il nostro è un ordinamento libero, ma c'è un problema. Il problema è, e quindi io non sono per impedire, chiudere, cioè, ma il problema è se tu il 28 mi fai la marcia su Roma E qui non si tratta di essere solo liberale, si tratta di porsi un problema, Luca. Se non te lo poni, poi il giorno dopo o nelle ore in cui avviene qualche cosa, non potrai dire: ah, però io non me l'ero posto. Ed è un problema fondamentale, perché anche per un liberale una delle pochissime funzioni per cui io salverei lo Stato ladro, no, la polizia è anche, no, la polizia non è preventiva per diffidenza politica, perché quella è la polizia politica. La polizia però, se esiste, visto che quelle tasse che pago, che sono una rapina, almeno una cosa la chiedo allo Stato, e si deve porre il problema per il suo ordinamento, che non ho scritto io, se il 28 in Italia torniamo a organizzare le marce su Roma. Questo è il punto, e su questo non puoi girarci intorno, Luca. 24 00 24. Ringraziamo David, che ha aumentato il minutaggio del record con questo suo intervento, lo salutiamo e accogliamo Danilo Toninelli, parlamentare a 5 Stelle, perché ci avviciniamo all'anniversario del Vaffa Day. Voglio solo dirvi perché abbiamo fatto questa, come nasce questa manifestazione. L'8 di settembre, perché l'8 di settembre è stato il giorno della disfatta degli italiani, 8 settembre 1943, quando i Savoia hanno lasciato il popolo italiano allo sbando, e da quella data lì non è cambiato niente! Danilo Toninelli quel giorno c'era, buongiorno a Toninelli. Buongiorno a voi studi e buongiorno ai Raggi. Immagino che abbia sentito la nostra discussione di prima. Lei condivide la scelta della Raggi, che con un tweet ha annunciato di essere pronta a opporsi a questa manifestazione? Ma ovviamente, ma di cosa stiamo parlando? Però sono d'accordo con lei quando dice che non c'è da aver paura. È vero che c'è un rischio di deriva estremista in molti dei paesi europei, soprattutto dell'est. È altrettanto vero che gli altri paesi europei, questi paesi europei, non hanno una forza politica di cittadini che sono entrati nelle istituzioni, si sono fatte istituzioni, che è il Movimento 5 Stelle, che ha totalmente messo a freno questa deriva. Quindi non preoccupiamoci, non facciamo questa manifestazione di pagliacci, stop, andiamo avanti a affrontare i problemi veri del paese. Allora, andiamo al tema grosso di cui si continua a discutere, il ritorno in auge del polo di centrodestra pone il tema delle coalizioni. Si parla di nuove modifiche alla legge elettorale, magari in extremis in coda di legislatura. Qual è la vostra posizione su questo? La nostra posizione è quella di persone che hanno studiato, che sono pronte, che hanno una buona legge elettorale, che questi vecchi partiti hanno sempre schifato perché era costituzionale, ma che non hanno alcuna intenzione di sprecare un minuto in più e perdere tempo nei dibattiti che questi vecchi partiti di centrodestra e centrosinistra ci hanno abituati. Io vi faccio un esempio. Ieri ero in commissione, abbiamo detto una cosa molto semplice, abbiamo detto prima di fare la legge elettorale facciamo i vitalizi, perché per noi è un segnale. No, ma non è niente di inventato, neanche di elettoralistico. Voi sapete che l'8 di giugno è stata affossata la legge elettorale a causa di circa 100 franchi tiratori, cioè quelli che nel voto segreto hanno votato contro l'indicazione del partito perché volevano affossare la legge. La maggior parte di loro era del Partito Democratico. Non è che sono scomparsi questi qua, sono gli stessi che probabilmente affosseranno domani al Senato la legge sull'abolizione dei vitalizi. Perfetto, noi chiediamo al PD un segnale, noi ci mettiamo 3 giorni a votare quella legge, che tra l'altro è a prima firma Richetti, che è del PD, anche se ovviamente è stata approvata alla Camera grazie al Movimento 5 Stelle. Approviamo quella legge al Senato. Per noi è un segnale non di una certezza, ma della probabilità che il PD tiene in pugno, tiene a freno, gestisce questi franchi tiratori, che non affosseranno nuovamente la legge elettorale nel voto segreto. Il PD lo vuole fare, sì o no? Poi c'è stata una scenetta ieri in commissione che è stata fantastica. Interviene Lauricella, che è un deputato del Partito Democratico, dicendo: a me piacciono le coalizioni, il primo di coalizione. Interviene Fiano, che voi sapete essere anche lui del Partito Democratico, relatore della legge uomo elettorale. Uomo renziano, contrario ovviamente. Che dice, no, Lauricella parla a titolo personale. Ma è ovvio, perché Renzi è contrario. Fantastico. Interviene nuovamente Lauricella e dice: no, fermi tutti, io parlo come una voce di una delle tante anime del PD, che potrebbe anche essere maggioritaria. Cioè, ma da dove andiamo con un Partito Democratico? Bella questa cronachetta parlamentare, Oscar. Questa, se voi leggete i resoconti della commissione, dice proprio: io faccio parte, e parlo non a titolo personale, ma a nome di una delle anime del PD. Quindi con questi qua. Beh, esistono le anime, le anime perse di Gogol e anche le anime diverse del PD. Vuoi fare una domanda o un intervento? No, io voglio semplicemente dire che io non ho mai creduto al fatto che questa lista delle leggi prioritarie per la fine della legislatura, te ricordate che nasce da Iniziativa di Repubblica, l'impegno che ho chiesto altissimo al PD di impegnarsi, lo Ius Soli, il ricalcolo del contributivo dei vitalizi, eccetera eccetera. Io purtroppo non ho mai creduto che quegli impegni sarebbero stati mantenuti, quindi sarò disincantato, ma non mi stupisco di niente, e quindi questa roba non passa. Invece la domanda che faccio io è questa: sulla legge elettorale, no? Sì, Toninelli, è giusto dire che il consultellum è ovviamente costituzionale, cioè figlio delle due sentenze che sono venute su Camera e Senato relative alle leggi elettorali da parte della Corte Costituzionale. La domanda però... Che sono due leggi diverse, perché uno è un Porcellum, esatto, modificato da una Corte, e l'altro è un Italicum modificato da un'altra Corte. Capito com'è l'Italia, sì, ragazzi? È una follia. E oltretutto con un meccanismo che in una delle Camere apre la possibilità di coalizione, nell'altra chiaramente no, quindi con una distonia anche nella stessa logica proporzionale. Ma la domanda che faccio a Toninelli è un'altra: dando per scontato, diamolo per scontato, che oramai si va su uno schema di questo tipo e con ogni probabilità quindi non c'è nessun premio di coalizione eccetera eccetera, sul dopo lo scenario vostro dei 5 Stelle è vedere se poi il PD renziano e il centrodestra provano a fare una cosa loro, oppure nel caso, certo, in cui foste primi e a quel punto, certo, il capo dello Stato chiama voi al Quirinale, se adesso lei mi dirà vedremo, d'accordo, ma ipotizziamo che siete arrivati primi e il Quirinale vi chiama, e a quel punto che cosa si fa con quel Parlamento per fare un governo? Ma la premessa che faccio è che io non do nulla per scontato, perché voi, sì, sapete meglio di me che il voto in Sicilia sarà un giro di boa probabilmente. Ovvio. Se dovessimo vincere e dovessimo arrivare primi con un certo distacco, state pur tranquilli che cambierà la legge. Cambieranno la legge. Sottoscrivo la scommessa. Mi pare abbastanza scontato. Noi, Zannino, se rimane quello che rimane, puntiamo al 40%. Non sono così diverse le due leggi, anche se sono formalmente diverse. Sostanzialmente se ringi intorno al 40%, pigli il premio alla Camera, ma l'8%, okay, pigli il premio al Senato. Però naturalmente la mia ipotesi era, ipotizziamo che non ci si arriva, e a quel punto però il Quirinale, siete arrivati primi, vi chiama, però... Se siamo arrivati prima con un certo distacco, sta a noi fare il governo, sta a noi presentare un programma e sta a noi fare un accordo programmatico, punto. Bisogna fare un salto di qualità nella democrazia oggi. Ma voi sentite parlare solo di coalizioni non fondate sui temi. Aspetti. Un'unione di poltrone e di voti. Tento di capire e di far capire gli ascoltatori, però può essere che abbia sbagliato a capire io. Quando dice a quel punto toccherebbe a noi, cioè 5 Stelle, stiamo parlando dello scenario in cui non è scattato il 40%, ma siete arrivati prima, il Quirinale vi chiama, dite al Quirinale, noi ci proviamo, e per provarci, traduco bene, significa che indicheresti 2, 3 punti, 4, non so quanti, ma coerenti alla vostra impostazione, aprendoli a qualcun altro, dicendo chi li accetta in Parlamento, così? Io dico questo, non facciamo rispondere alleanze con i partiti, ma facciamo alleanze con i programmi. Voi sapete che costituzionalmente c'è la mozione di fiducia al governo. La mozione di fiducia su che cosa si basa? Si basa su un programma. Se voi leggete la mozione di fiducia che fanno per dare vita col voto della maggioranza parlamentare un governo, si basa sul nulla, non sul programma. In Gran Bretagna ogni anno leggono il programma per filo e per segno, che deve essere rispettato. Noi vogliamo dare alla democrazia un salto di qualità. Noi presentiamo un programma, qualcuno ci venisse a dire se diamo una mano ai giovani, se diamo una mano ai pensionati, alle piccole e medie imprese, se ci votano contro semplicemente perché siamo di uno schieramento diverso o ci mancano 50 parlamentari per avere la maggioranza. Mi sembra molto chiaro. E l'ultima domanda che vorrei fare a Toninelli è invece sul tema della vicenda del giorno, la vicenda del vaccino, della malaria. Che cosa pensa delle polemiche politiche che si sono aperte sul caso della bambina Sonia morta a 4 anni per il contagio avvenuto nell'ospedale di Trieste? Penso che bisogna approfondire la materia e non creare allarmismi già purtroppo creati dall'ignoranza e l'incapacità di visione politica del Ministero, del Ministro della Sanità in particolare, proprio sui vaccini. Siamo, io sono un genitore, ho un privilegio di riuscire a leggere le leggi prima ancora che vengano approvate, ma capisco che le milioni di genitori che ci sono in Italia oggi siano in una situazione di disagio totale, perché non sanno, approssimandosi ad iscriversi i bambini e la loro ragazza alle scuole, che cavolo devono fare pensando chissà che cosa gli capiterà. A loro e figli. Ma che democrazia è questa? Una democrazia sana, una democrazia dove la classe politica, il decisore politico accompagna i cittadini nella formazione della decisione. Quando la decisione politica è presa, cioè vaccini sì, vaccini no, lascia stare che 10 vaccini obbligatori ce l'abbiamo solo noi e chissà che cosa andiamo a pensare per questo, ma quando arrivi a questa decisione i cittadini devono sapere perché ci sei arrivato e che cosa devono fare. Qua siamo, non siamo né dalla parte della Lega, che del vento, che dice no, perché anche lì aumenta la polemica e aumenta, diciamo, lo stato d'ansia dei genitori, però così veramente siamo al ridicolo della politica. Grazie, qualunque idea politica abbiate, quando ci sono parole di buonsenso è importante ascoltarle. Oscar, grazie, salutiamo Toninelli. Sai che un ascoltatore, Francesco, scrive: Giannino ha la sedia che cigola. Cioè, pensa come in religioso silenzio ti ascoltano, no, quando parli. No, no, sono semplicemente questa, cioè, è... potrei, ma no, è una profezia, un la sedia naso, che cigola, mi cacciano, vuol dire quello, no. Ma tu pensi al rumore degli ascolti, invece è simbolico, è metaforico. C'è qualcuno che ora in una stanza con una tazzina di caffè fermo dice: ma c'è la sedia di Oscar che cigola. E noi abbiamo al telefono Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Mi ha stupito leggere la sua intervista, però sempre le posizioni spiazzanti sono sempre benvenute, che dice: non vorrei parlare troppo di altre forze politiche, però usare il 28 ottobre e un manifesto creato durante il fascismo significa che non si ha nessun progetto politico, ma si cerca solo di accendere una lampadina sul movimento con facili polemiche. Buongiorno Di Stefano. Buongiorno a voi. Quindi, buongiorno a voi. Casa Pound considera quel corteo caricaturale, ho capito bene? Ma non è una questione di caricaturale o meno, come ho detto è una questione di accendere una lampadina andando, diciamo così, a toccare il mito delle veste. Poi si dà la possibilità a chiunque di fare le proprie invettive, di chiedere leggi liberticide, di chiedere gli scioglimenti dei movimenti, di chiedere un sacco di cose, senza poi andare a affrontare quello che è il tema vero politico, perché poi la manifestazione per cos'è? Per lo Ius Soli, cioè un argomento che di qualche mese fa, che è già, diciamo, passato, perché è già stato... No, altra cosa, delle leggi promesse che non verrà approvata mai, come dice lei, infatti, giustamente. Sì, ma cioè, ma voi non fate, non fareste un corteo insieme a loro o anche separatamente nell'anniversario della marcia su Roma? No, allora, premesso che Forza Nuova ha pienamente diritto di manifestare dove e quando vuole, senza che nessuno vi alzi alla sedia a chiedere scioglimenti, perché per sciogliere un movimento serve l'intervento della magistratura, l'intervento del Ministero degli Interni, si devono accertare determinate cose, quindi Forza Nuova ha pienamente diritto di fare quello che vuole, di manifestare come vuole. Io ripeto, non c'è in questo caso nessuna necessità di andare a utilizzare la manifestazione del 28 ottobre, cioè quella data, e i manifesti della Repubblica Sociale, ovviamente per alzare perché, il pubblico. E lei è critico, questo mi interessa, anche sull'uso del manifesto famoso della Repubblica Sociale, quello, cioè, stiamo parlando del manifesto attenta, difendila, le tue donne stuprate dai marocchini e dagli stranieri, è contrario, la cioè, trovano un'operazione necrofila. No, quello è un manifesto che si basa su un evento nello specifico, che era l'invasione delle truppe alleate francesi, che con le truppe coloniali marocchine hanno fatto gli stupri etnici in Ciociaria, e quel manifesto riguardava quella vicenda. Diciamo, andarla a ritirare fuori semplicemente vuol dire, ripeto, cercare scandalo, cercare di... Forza Nuova aveva fatto già in passato manifesti simili, non con quella grafica, che non avevano dato tutto questo scandalo. Questa volta, diciamo così, hanno dato scandalo, però ripeto, cioè io preferisco non parlare, no, non manifesterei con Forza Nuova, perché abbiamo delle distanze siderali che ci dividono, su cui non siamo, cioè, siamo agli antipodi per... Chiaro, voi non usereste il manifesto di Boccasile perché lo considerate una, come dire, un falso storico, prendere una cosa prodotta in un altro tempo e non commemorereste quella marcia su Roma in quel modo. Bene, grazie a Di Stefano, torniamo a Oscar ed effettivamente ora devo dire una cosa, Francesco ha un ottimo udito, la tua sedia cigola. Vabbè, la mia sedia cigola. Fatemene una ragione, perché una nuova Radio 24 non ce la compra, cioè inutile che fate che se chiedete arredi ma nuovi no, attribuendone la richiesta agli ascoltatori. Abbiamo dei mezzi potentissimi. Dei mezzi potentissimi, Oscar, ma abituati a risparmiare. E cari ascoltatori, non so se vi siete resi conto, la nostra azienda risparmia molto di più in quest'ultimo periodo, perché diciamo infatti, c'è qualche pregresso da far dimenticare. Una sana austerità. Senti, io posso dirti però, io considero questa cosa di Casa Pound una specie di conferma del fatto che è concorrenza del vicino, e quindi la considero così, ma credo che anche molte delle cose che fa con l'impegno sociale di Casa Pound abbiano l'occhietto che strizza. È un problema delicato quello dei liberali, non dimenticarsi mai che la piena libertà di espressione significa però nella storia del nostro paese come della Germania non dimenticare che cosa noi abbiamo regalato al mondo, caro Luca. Non si tratta di avere paura o meno, si tratta di non addormentarsi su queste cose qua. Ecco, io tutto qui, questo mi limito a dire. Cioè, noi viviamo in contesti e paesi che dimenticano tutti. Ti faccio un esempio. Oggi c'è Repubblica, pagina 12, che torna, credo che sia la quinta o sesta volta in tre anni, su questo caso che a me sembra paurosa espressione dei tempi che viviamo. Stiamo parlando di questa donna pakistana che si chiama Asia Bibi, che dal 2014, che langue in carcere, schiaffata in carcere in Pakistan, perché è cristiana. Punto. Tutto lì. Allora, io non sono uno che dice i cristiani devono diventare la nostra bandiera, sono sostanzialmente indifferente alle religioni, ma che l'intero Occidente, noi, l'Italia, il paese del Papa, il paese che si divide ancora sulle questioni ideologiche della fede, la bioetica, eccetera, che cosa riusciamo a fare in tre anni perché una cristiana sta lì in carcere in Pakistan? E i pakistani ti spiegano, ma avete ragione, ma mica la possiamo liberare perché qui ci sarebbe l'insurrezione dei musulmani. Niente. Cosa abbiamo fatto? Zero. Il Papa che sta a Bogotà, cosa cazzo ha fatto? No! Zero! Allora, ecco, questa roba qui esprime il fatto che noi i valori, che c'è più niente. Questo lo dico tragicamente, ma è così. Ancora un tema importante voglio discutere con te, ne ho accennato in rassegna, ma insomma, viva Dio che limano il compenso a Fazio e a Vespa, qualcuno dirà, no, Fazio, ma questi no, rosicano, eh? A Vespa, non a Vespa. No, vorrei che lo limassero di più, perché mi sembrano che siano veramente quotazioni fuori mercato. Cioè mi sembra che la TV di Stato non possa dare i milioni di euro che non darebbe neanche una TV commerciale. Ecco, il problema è che bisogna distinguere. Questo è un dibattito che abbiamo fatto qui a Radio 24 per molte mattine quando ci fu la vicenda di Fazio. Io sono per una feroce distinzione che avvisi il pubblico: questo programma è fatto solo con i soldi del canone e deve essere diverso. Questo è fatto coi soldi raccolti dalla Star, che è brava e ci fa piovere pubblicità, e non è servizio pubblico. La RAI questo non lo fa. C'è stata un'intervista di Orfeo gravissima pochi giorni fa, in cui ha ricordato lui, gravissimo, che è stata ridata la concessione alla RAI senza il contratto di servizio, quindi il governo si è affidato alla RAI in bianco, così com'è. Secondo, ha detto che lo stanno scrivendo loro il contratto di servizio, mentre lo dovrebbe scrivere il governo, e ha chiesto più soldi dopo che il canone in bolletta ha fatto aumentare più del 30% gli incassi. Mandassero a quel paese. Fantastico, Oscar, però continua il dibattito sulla tua sedia. Eulo suggerisce un po' di silicone, un po' d'olio. Un altro ascoltatore, vedi che strideva, dice: ma sedia nuova, ma basta un po' di svitolo. No, Oscar, sedia vecchia, ragazzi, che siete giornalisti. No, dice, non una, serve la sedia è una, nuova. È una sedia fatta con gli arredi dell'Eyar. Basta lo svitolo. Ciao, buongiorno, buongiorno, ci sentiamo domani.